La rotta balcanica in bicicletta. Seconda puntata. Corinto. La rotta dei Balcani occidentali è la seconda via più utilizzata per migrare verso l'Europa dopo quella del Mediterraneo. Prima di iniziare l'attraversamento della penisola balcanica, le persone in movimento fanno tappa in Turchia. Le destinazioni più desiderate restano i paesi dell'Europa centrale e settentrionale. La rotta balcanica è composta da un numero imprecisato di sentieri e di strade in continuo mutamento che si percorrono in vari modi, per molti tratti a piedi, ma anche su autobus di linea, piccole imbarcazioni, taxi, treni, traghetti, auto, furgoni, tir. Questo corridoio informale oggi passa specialmente da Bulgaria, Serbia, Ungheria, Romania, Bosnia e Erzegovina, Croazia e Slovenia. Da anni le rotte balcaniche vengono modulate dai giochi politici del momento. Le opinioni pubbliche europee, culturalmente devastate da informazione spazzatura ed economicamente impoverite dalle continue crisi sistemiche, puntano il dito verso nemici che non conoscono e che non sono responsabili della loro condizione. Mentre in Europa si continua a discutere di flussi da fermare, blocchi navali, riforme del sistema di asilo, fattori di attrazione, centri per il rimpatrio, redistribuzioni, muri e regole, le fallimentari politiche migratorie, mai favorevoli per le persone in movimento, continuano a provocare enormi sofferenze, traumi, morti. Non esistono confini invalicabili, nemmeno quelli militarizzati o murati. Nessuna politica potrà fermare chi prova a scriversi un futuro migliore. Sono Giacomo, sono un cicloattivista e questo è La rotta balcanica in bicicletta, un documentario radiofonico Don Pierce. Don Pierce. Don Pierce. Arrivo a Corinto in un caldo pomeriggio di fine maggio. Dopo 454 km di pedalate in 6 giorni, faccio la prima sosta lunga, poiché voglio vedere dove è finito il materiale igienico ed alimentare che raccoglievano gli scout del Verona 13. Ad accogliermi c'è Mina, che si stupisce poiché non sembro arrivato in bicicletta. Nonostante 70 km pedalati e il calore intenso, sono freschissimo, pulito e profumato. Le rivelo che prima di entrare in città ho fatto una doccia in spiaggia. Mina deve sbrigare delle commissioni e mi invita a salire in auto con lei. Ne approfitta per mostrarmi il campo di rifugiati della città. È un posto enorme, circondato da un alto muro in cemento di oltre 2 metri, decorato da filo spinato. Questo posto è gestito dallo Stato greco e finanziato da Unione Europea. Ospita oltre 800 persone. Sono famiglie e richiedenti asilo. Buona parte di loro hanno smesso di viaggiare e sono alle prese con il limbo dei documenti per l'ottenimento dell'asilo. Altri sono in pausa in attesa di riprendere la rotta. In questi luoghi non posso entrare, la sicurezza privata controlla gli accessi e non vengono rilasciati facilmente pass per i giornalisti. Il campo di Corinto è diviso in capannoni, all'interno dei quali ci sono dei container, ognuno dei quali ha 4 posti letto. Di solito in un container vengono alloggiati i membri di una famiglia o singoli delle stesse nazionalità. Il luogo è anche sede di una prigione per migranti, un centro di riconoscimento ed espulsione, dove vengono messe le persone a cui è rifiutato l'asilo e che dovrebbero, secondo leggi assurde e spesso impossibili da applicare, essere rimpatriate nel paese d'origine. Terminate le commissioni, Mina mi porta al centro Kerapsies, che si può tradurre dal greco come stretta di mano, frutto di un progetto che intende supportare le persone che hanno richiesto l'asilo. Sì, io sono la coordinatrice del progetto Kerapsies. Questo progetto è nato dalla collaborazione di 3 organizzazioni che sono Basilica Moon, One Bridge Two Domeni, entrambe italiane, e Alithia, che invece è svizzera. Quindi nel 2020 è nato questo progetto, è partito con la scuola appunto nel 2020 e poi invece nel 2021 hanno aperto il Community Center e il Free Shop. Qua a Corinto. Il centro Kerapsies è uno spazio ricreativo, un luogo libero, di incontro, dove le persone che alloggiano al campo di rifugiati trovano uno spazio di socialità, si informano su come accedere ai servizi, possono bere un caffè, giocare agli scacchi, frequentare corsi di lingua, prenotare una visita medica. C'è anche il Free Shop, il negozio gratuito, che viene rifornito un paio di volte all'anno dal Solidaritir, il cui materiale ho visto raccogliere dagli scout di Verona. Il centro è animato da volontari e volontarie provenienti principalmente dall'Italia. Passano a Corinto un periodo di 2 o 3 mesi, rendendosi utili in diversi modi. Faccio 2 chiacchiere con loro. Io sono Giulia, ho 22 anni, e sono arrivata qua circa un mesetto fa, perciò a fine aprile. Mi interessava un po' approfondire, diciamo, la questione migratoria, nel senso che l'avevo sempre un po' studiata all'università, ne senti parlare da anni ai telegiornali, volevo dare un po' un volto a questa situazione un po' astratta. Va bene, quindi sono Giulia, ho 23 anni. Sentivo proprio il bisogno di dover mettere un po' di concretezza a quello che stavo studiando. Che cos'è questo fenomeno migratorio? Cosa vive una persona che lo vive? Allora, mi chiamo Silvia, ho 23 anni. Vengo da Brescia, ma ho studiato a Bologna questi ultimi 3 anni, antropologia. Sono venuta qui a Corinto per conoscere meglio, capire meglio come funziona il tutto. Secondo me è molto da lontano, molto difficile capire che cosa succede quando lo vedi, vedere le persone, cosa gli succede. Effettivamente riesci un po' a capire meglio come è affrontato e hai anche più strumenti per poterti informare, nel senso che finché non conosci le persone fisicamente, finché non vedi effettivamente che cosa succede, non sai a quale verità che è raccontata a fidarti, secondo me. Allora, mi chiamo Benedetta, ho 24 anni, quasi 25. Io studio psicologia di comunità magistrale e qui sto facendo il mio tirocinio pre-lauream. Volevo fare un'esperienza nel campo anche un pochino della comunità, quindi nel campo sociale, non guardando da lontano le cose, ma toccandole con mano e infilandomici proprio tutta, con tutti i piedi. Questo tipo di progetto comunque, cioè, lo sento molto nelle mie corde perché è molto pratico, nel senso che comunque parte dal presupposto che per sapere cosa devi fare devi prima parlare con le persone con cui vuoi interagire. Quindi è stato creato e tutto quello che è qua viene creato tutti i giorni e modificato ogni volta che cambiano i volontari sulla base dei bisogni delle persone che frequentano il centro. Quindi è proprio creato sui loro bisogni ed è l'unico senso, secondo me, che può avere una cosa del genere. Il progetto consiste sia nel dare servizi un po' di base, come possono essere alimenti gratuiti del free shop, visite mediche, ma anche attività un po' ricreative per cercare di far passare le giornate in modo un po' più leggero a queste persone che comunque stanno nel campo profughi tutto il tempo. Il mio focal point qui perciò è la English class beginner, German class beginner, poi lezioni di fotografia e poi in realtà è la warehouse, perciò il magazzino, che è il focal point maggiore, possiamo dire. Perciò mi occupo di fare gli import e export dei prodotti che arrivano, delle donazioni, dei prodotti che poi portiamo qua al free shop da vendere, ma in realtà non vendiamo, nel senso che è comunque un free shop, perciò è gratuito. E adesso che è arrivato il Solidaritir dall'Italia, si tratta proprio di un lavoro di smistare anche tutti gli alimenti che sono arrivati col tir, tutte le cose, importarle in magazzino, sistemare un po' il magazzino, e questo è un po' quello di cui generalmente mi occupo qui, ecco. In realtà, beh, la giornata è strutturata fai tutto. Io insegno tedesco a un signore molto bravo e gestisco la giornata delle donne, che è uno spazio sicuro, o comunque sicuro, anche un po' di libertà di espressione per le donne. Con questo spazio abbiamo voluto creare appunto una cosa un po' libera, dove possono venire a cucinare, imparare inglese, c'è lo shop, fare un po' di shopping, di prendere i vestiti, scarpe, cose, possono portare i bimbi, quindi magari insomma li gestiamo. Poi io gestisco dentista e oftalmologi, quindi essenzialmente sono in contatto con l'ospedale, con le varie associazioni per prenotare appuntamenti dei bisogni di base. Una cosa che fa molto molto impressione è che loro, cioè le persone che stanno qui, dalle più svariate età hanno tantissimi problemi di salute che vanno dal braccio rotto al problema all'anca, ai problemi ai denti, tantissimi. C'è il job, quindi trovare lavoro, contatti con i vari posti che assumono, creare curriculum, cooking class, bellissime, divertentissime. Secondo me è una delle migliori lezioni, perché c'è un scambio culturale bellissimo per quanto mi riguarda. Secondo me tramite il cibo si comunica tantissimo. In realtà questa è la giornata, inizia alle 10, finisci alle 6 quando va bene, però è sempre bello stare qui, ecco. Fai tu il fuoco, perdo l'anima, fammi il segno che vuoi tu, vuoi che il vento soffia, arrivi qua, l'aria è sporca fin lassù, vuoi la terra e non c'è. Dato che Mina è la persona che è qui a Corinto da più tempo, le chiedo di spiegarmi un po' come vanno le cose in Grecia, paese nel quale ho messo piede la prima volta solo 6 giorni fa. Innanzitutto, voglio capire da dove arrivano le persone che abitano nel campo profughi e che lei incontra qui al centro Kerapsies. In Grecia ci sono sempre persone che arrivano da alcuni stati africani, ad esempio Congo, Camerun, Uganda, però soprattutto dai paesi del Medio Oriente, quindi dall'Afghanistan alla Siria, l'Iran, Iraq, per una vicinanza geografica, ecco, semplicemente per quello. Tutta la gente che arriva in Grecia passa dalla Turchia, proprio perché la Turchia è il paese che devono attraversare per arrivare in Grecia, insomma, o passano dalla Bulgaria o dalla Turchia. Molto più facilmente dalla Turchia, semplicemente perché le persone che arrivano soprattutto dal Congo, dal Camerun, e arrivano in Turchia in aereo, per loro è facile ottenere un visto, poi dalla Turchia se la fanno o a piedi o con i barconi e approdano quindi poi sulle isole greche, perché tipo ci sono Chios, Samos, Lesbos e Kos, che sono isole greche che però geograficamente sono più vicine alla Turchia rispetto che alla mainland greca. Appunto, vabbè, in Turchia insomma adesso ha vinto Erdogan un'altra volta, qua in Grecia ha vinto di nuovo Mitsotakis, quindi sono partiti di destra, insomma, che quindi anche loro, la loro politica è basata principalmente sull'antimigrazione e quindi hanno sicuramente aumentato i controlli fronterizi tra Turchia e Grecia. Quindi cioè, ci sono tanti pushback dalla Grecia alla Turchia, li rimandano in Turchia. Pochi giorni fa appunto c'è stata la notizia che è stato visto, ci sono le prove proprio dei video evidenti dove la guardia costiera greca, invece di salvare le persone che sono già in acque territoriali greche, vengono invece rispediti indietro in Turchia, vengono proprio spinti fisicamente indietro. Mina mi parla del concetto di pushback. Come avevo accennato nella prima puntata, si tratta di una pratica criminale tramite la quale la polizia di frontiera italiana rispediva in Grecia le persone senza documenti in arrivo da Patrasso nei porti di Bari, Ancona e Venezia. Queste erano rinchiuse contro la loro volontà nelle stive delle navi commerciali usate dai turisti. Pushback significa respingimento. Si tratta di un'espulsione transfrontaliera informale e senza giusto processo di individui o gruppi di persone verso un altro paese. È un altro triste fondamentale della rotta balcanica. Ufficialmente questa pratica non esiste, poiché è illegale. Il diritto d'asilo, infatti, contempla la possibilità per ogni individuo di richiedere protezione internazionale nel caso in cui la sua vita sia minacciata. In particolare, la Convenzione di Ginevra del 1951, relativa allo status dei rifugiati, include il principio di non respingimento, che vieta di espellere una persona verso territori nei quali la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Tutti gli stati dell'Unione Europea hanno firmato la Convenzione. Essi si sono vincolati all'asilo anche con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che vieta tra l'altro le espulsioni collettive. Impedire con la forza a una persona o ad un gruppo di persone di varcare un confine e chiedere asilo viola questi principi ed è quindi da considerarsi un'infrazione del diritto internazionale. Come vedremo nei prossimi episodi, da anni i respingimenti sono diventati una prassi delle politiche migratorie di molti degli stati dell'Unione Europea. Sono una conseguenza delle politiche di esternalizzazione delle frontiere, che impongono un lavoro sporco agli stati più deboli e periferici dell'Unione, ed anche ad altri paesi vicini. Perché gli stati fanno le leggi e poi non le rispettano? Chi sono i responsabili di queste politiche che stanno rimettendo in discussione diritti e principi giuridici che sembravano acquisiti da decenni? Ne avevo parlato con Jacopo Rui. E c'era stata la visita da parte di fresca di nomina la von der Leyen, c'era Charles Michel, David Sassoli e c'era Mitsotakis a marzo del 2020 e anche lì l'Unione Europea, tramite la voce di appunto von der Leyen, disse che la Grecia sarà lo scudo d'Europa, in qualche modo andando a legittimare una politica di respingimenti il cui braccio armato è quello di Frontex, inaugurata da lì in avanti, che ha fatto registrare decine, sino anche a centinaia di casi di respingimento via mare, riportate dal New York Times, accertate proprio con video, filmati e tutto quanto, che tuttora vige, insomma. Se fino al 2019 le persone che attraversavano lì dovevano essere prese in carico dalla Guardia Costiera greca, da lì in poi si è dato, come dire, via libera politico affinché questa cosa non succedesse più e la Guardia Costiera greca tutt'oggi, se intercetta qualcuno nelle sue acque territoriali, le rimanda indietro, e mettendo in pericolo la vita delle persone che sono in mare, ma poi consegnandole anche a conseguenze legali in Turchia, perché una volta rientrate in Turchia le persone vengono arrestate perché hanno provato ad andarsene, ecco. Quindi queste sono le responsabilità comunitarie e poi dopo ci sono sempre le responsabilità dei singoli stati, fino ad arrivare alle responsabilità delle singole persone, dei singoli poliziotti di frontiera che applicano un ordine e che non sono esenti da giudizio in quanto comunque decidono di farlo e che quindi respingono picchiando, umiliando, derubando, rompendo i telefoni delle persone che intercettano lungo il confine. La Croazia, che per anni ha portato avanti questa politica di respingimenti molto duri, è entrata nell'area Schengen e in qualche modo forse dopo essersi conquistata il fatto di dire i confini li so proteggere. Farsi raccontare un respingimento dai protagonisti della rotta balcanica è purtroppo troppo facile. Per alcuni giorni osservo le attività di Kerapsies, il lavoro dei volontari e delle volontarie, e conosco un po' delle persone che frequentano il posto. Incontro dei giovanissimi iracheni, alcuni minorenni. Vivono al campo e frequentano il centro. Faccio con loro un paio di partite a scacchi, chiacchieriamo del più e del meno. Gli racconto cosa sto facendo, gli mostro alcune foto della bicicletta e delle spiagge nelle quali ho bivaccato negli ultimi giorni. In cambio, anche loro mi fanno vedere le foto del loro viaggio. Vedo degli scatti che li ritraggono nel bel mezzo di una foresta. Sembrano in un momento di pausa, di riposo. Si trovano in qualche posto in Turchia e stanno tentando di raggiungere l'Europa. Le loro facce si fanno più serie quando mi spiegano che dopo pochi giorni da quello scatto, la polizia greca li ha sorpresi vicini al confine, li ha arrestati e riportati in Turchia. Sono stati respinti. Police Greek. Police Greek. From Greece to Turkey. From Greece, Asako. Sì. Con le manette. In Turchia, you know? Sì. Per arrivare in Grecia hanno percorso lunghi tratti di strada a piedi e sono riusciti a varcare con successo il confine solo dopo aver pagato i cosiddetti trafficanti, che li hanno caricati su una piccola imbarcazione dove erano presenti anche altre persone. Dopo l'ennesimo tentativo di entrare in Grecia, pur essendo stati nuovamente scoperti dalla polizia, sono stati trasferiti qui, al campo di Corinto, dove è iniziata tutta la trafila burocratica che sta valutando la loro domanda di asilo. In realtà, il loro obiettivo è quello di arrivare in Europa centrale. Mi spiegano delle varie possibilità per proseguire il viaggio, anche se non sanno se o quando ripartiranno, dato che non hanno più soldi. Sanno che potrebbero passare dall'Albania per poi raggiungere la Serbia. Mi dicono che è una rotta facile e che non c'è bisogno di pagare. From Greece to Albania, easy. So easy. Dalla Serbia del Nord però ci vogliono qualche migliaia di euro, 3.000 secondo loro, per un passaggio, prima in Ungheria, poi in Austria e poi in Germania. Un'altra persona che è rimasta intrappolata nelle trafile burocratiche greche è Sherif, giovane guineano che vive al campo rifugiati di Corinto. Io sono né precisamente ad Abola, sono venuto in Turchia après. Sono nato in Guinea, precisamente ad Abola. Nel mio paese ho avuto dei problemi e quindi sono andato in Turchia, dove sono rimasto un po' più di un mese. Poi sono venuto qui in Grecia. Da quando sono arrivato sono un po' turbato. Infatti qui mi sento in gabbia. Al campo siamo continuamente sorvegliati e questo ha delle conseguenze su di me. Ti senti come imprigionato. È il sistema che funziona così. Quando sono arrivato sul territorio greco, mi hanno controllato, mi hanno preso le impronte digitali, poi hanno ascoltato la mia storia. Ora, da oltre 6 mesi, sto aspettando una risposta alla domanda di asilo. Purtroppo non ho i mezzi per permettermi un avvocato privato, quindi non è facile. Ho domandato l'asilo per poter vivere in sicurezza, ma il risultato non arriva. Il tempo passa e si vive una volta sola. Una questione che sapevo nella teoria, ma che non riuscivo a immaginare bene, era un po' la questione del tempo. Cioè la cosa che più di tutte mi ha stupito è vedere appunto persone che stanno in questa situazione di stallo per così tanto tempo, ad aspettare per l'appunto qui in Grecia tra vari colloqui, che finalmente poter ricevere magari i documenti e quando anche ricevono i documenti di poter finalmente magari essere accettati in altri paesi, perché comunque la maggior parte non vuole rimanere in Grecia, vuole magari andare in Francia, Italia, Germania, Svizzera o altri paesi del nord Europa. Non lo so, una cosa che mi ha stupito davvero è vedere queste persone che passano un po' queste giornate in un certo senso aspettando. Tutta questa speranza, cioè questo carico di speranza con cui si arriva in ricerca appunto di una vita migliore e poi si arriva qua e in verità ci si trova in questo limbo temporale in cui aspetti sempre che questa felicità arrivi, che finalmente si possa concretizzare il tuo sogno e poi magari ti arrivano davvero i documenti dopo anni che sei qui nel campo e vai in un altro paese, anche lì sarà un po' la stessa situazione. Cioè un po' questa questione mi ha veramente scioccato e mi ha scioccato soprattutto rendermi conto, nonostante già magari un po' lo sapessi prima, quanto è forte la nostra indifferenza occidentale nel quasi deumanizzare delle persone, nel senso appunto questa parola migranti, rifugiati, cioè ma chi sono questi migranti rifugiati? Alla fine sono persone che attendono e sempre dovranno, anche quando magari riusciranno veramente ad avere documenti, a stare bene nel paese, trovare un lavoro, affrontare difficoltà giorno dopo giorno date dal fatto di appunto essere questa categoria appunto quasi deumanizzata, no? Quasi ti viene voglia di dire, cioè di mandare qui a questo progetto, di far venire qui tutta la gente che si lamenta, ad esempio in Italia, tutti coloro che continuano a parlare di questo fattore della migrazione come un problema, farli venire qui, conoscere la gente, le persone e fargli vedere che sono esattamente come te. E se tu ti trovassi nella stessa situazione, non ti piacerebbe ricevere questo trattamento, non lo so. Difficile, direi quello che ho sempre detto. Cioè cercherei di dire, senti, ma se tu ti trovassi in questa situazione e volessi andartene, perché tu hai il diritto di uomo o donna occidentale di poter cercare lavoro in un altro paese, andartene, rifarti una vita, e invece una persona che viene per dire dall'Afghanistan non ce l'ha, cosa ha di diverso? È vero che siamo venuti qui illegalmente e non siamo a casa nostra. Ma potrebbe anche succedere il contrario. Un bianco potrebbe dover fuggire da casa sua e arrivare in Africa, e non sarebbe mai trattato in questa maniera. Questo accade anche perché gli europei hanno tanti stereotipi sull'Africa. Per esempio, dicono che in Africa sono dei barbari. Gli viene raccontata qualsiasi cosa, ma... Prendetevi il tempo di andarci e vedrete che sarete trattati come dei re, perché i neri hanno sempre avuto rispetto dei bianchi. Quindi incoraggio la gioventù europea di andare a conoscere la realtà africana, in modo da togliersi il razzismo dalla testa, perché questo è veramente troppo radicato. Per esempio, da quando sono qui, non ho mai avuto un amico greco. Nel mio paese si dice: colui che viaggia molto è allo stesso livello di chi ha studiato. È una maniera di imparare, perché si scoprono molte cose. È anche per questo che consiglio ai giovani europei di venire a visitare la nostra terra, senza avere paura della pelle nera, perché non l'abbiamo fatta noi. Non siamo diversi, siamo degli esseri umani, come voi. C'era una storia che conosco grazie ad uno spettacolo di teatro. L'autore diceva al pubblico di fare attenzione quando si incontra uno straniero, perché potrebbe essere un principe, anche se ha l'aspetto di un mendicante. Quindi è una maniera di dire che non bisogna sempre essere egocentrici, ma è meglio essere aperti verso le persone. Se non conosci qualcuno, non bisogna avere paura, ma cercare di conoscerlo. Se ti metti in testa che tutti gli uomini sono dei malfattori, beh, ti sbagli. Ci sono dei principi tra di noi. Quindi non abbiate paura, prendetevi il tempo di conoscere i vostri fratelli neri e se potete prendetevi il tempo di uscire e conoscere il mondo. Se avessi la bacchetta magica, i superpoteri, sì, utopisticamente, come si risolverebbe tutto questo? Sicuramente io vorrei che la gente fosse veramente libera di potersi muovere e quindi io quello che farei è sicuramente aprire le frontiere, nel senso che le persone che vogliono venire, benvenute, accogliamoli, aiutiamoli tutti, però chiaramente anche la persona stessa deve un po' emanciparsi. Per fare quello ovviamente c'è bisogno però di un aiuto, perché effettivamente è difficile rivivere in un paese dove non... Ma tu pensa anche, non so, alle famiglie che vengono, no? Cioè i figli, se tu gli dai la possibilità di far studiare i figli, cioè questa è gente che parla minimo tre lingue di base e che conosce culture diverse, che quindi ha una mente biologicamente più aperta, ma se i figli, cioè le seconde generazioni sono realmente le persone sulle quali dobbiamo puntare. Infatti le persone che dicono, cioè non mi ricordo chi lo diceva, però mi piace tantissimo sta cosa, se tu sei preoccupato che una persona analfabeta che non parla la tua lingua, che di un'altra cultura ti rubi il lavoro, probabilmente il problema sei tu, non è la persona che viene. L'ultimo giorno che passo a Corinto incontro Salomè, una signora camerunese che vive nel campo di rifugiati della città. Si sta sfogando con alcune volontarie di Kerapsies per il suo ginocchio gonfio e per altre questioni più personali. Lavora in una fabbrica che si occupa di parti della lavorazione per il marchio della moda a basso costo Zara. Guadagna 30 euro al giorno. Sta in piedi tutte le 8 ore di lavoro e per questo ha male al ginocchio. Concludendo la discussione, Salomè dice una frase che resta indelebile nei miei ricordi di quei giorni. È meglio morire che vivere nella povertà. E che comunque care grazia, perché tanto l'italiano o il greco non lo fa questo lavoro, quindi cioè, se non ci fossero i migranti in realtà noi non potremmo più andare al supermercato a fare la spesa praticamente, mica che li va a raccogliere i pomodori. Sì, ma sì, ma tu, cioè, tu pensa appunto, oggi è venuto un signore a chiedermi di gente per lavorare e io dico, cioè con tutta la disoccupazione che c'è in Grecia, tu chiedi a me di cercargli qualcuno nel campo che lavori per lui. Cioè, allora di cosa stiamo parlando esattamente, no? Sì. Di cosa stiamo parlando? Chiaro. La rotta balcanica è un tritacarne. Attraverso una violenza inaudita, vulnerabilizza le persone e le prepara ad essere docili servi delle nostre società. La rotta balcanica in bicicletta è un documentario radiofonico Don Pears, scritto da Giacomo Corticelli, musiche di Giulio De Boni Dovago, produzione, mixaggio e fotografie Don Pears. iscriviti ai canali social donpairs.it per tutti gli aggiornamenti e le foto del viaggio. Tutte le puntate sono riascoltabili sulle principali piattaforme di podcast. Scopri e sostieni il progetto con una donazione sul sito buonacausa.org/cause/donpairs.